You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly. Che cavolo aspettiamo a mangiare? Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto e benvenuti a questa puntata di Indovina chi viene a cena. Quando ho immaginato il tema della puntata di stasera qualche giorno fa, pensavo di parlare del libro Sottomissione di Houellebecq, lo scrittore francese che in questo romanzo, che è stato pubblicato pochi giorni fa in Francia e sarà nelle librerie italiane il 15 di gennaio, immagina appunto una Francia sottomessa all'Islam, all'Islam più fondamentalista, una Francia che rinuncia ai valori dell'illuminismo dell'Occidente per abbracciare un fondamentalismo oscurantista. Poi, qualche ora dopo, c'è stato l'attentato al giornale satirico Charlie Hebdo, un giornale francese di Parigi, dove, come sapete, sono state uccise delle persone, vignettisti, ma non solo, proprio da dei fondamentalisti islamici. Quindi il dibattito è ancora più importante, più di attualità, e vogliamo parlarne questa sera con una scrittrice italiana di origine somala di religione islamica, Hijaba Shego. Buonasera. Buonasera. Lei per Internazionale, qualche ora dopo il massacro di Parigi, ha scritto un articolo dal titolo Non in mio nome. Assolutamente sì, perché c'è una distinzione basilare da fare. Da una parte c'è tutta una comunità di musulmani nel mondo che possono essere molto religiosi, poco religiosi, per niente religiosi, laici, c'è un'ampia gamma, che comunque sono persone di pace, cioè che vivono la loro religione in modo assolutamente tranquillo. Dall'altra parte io non li chiamerei Islam moderato, che è una parola pericolosissima, il moderato accanto a Islam, perché l'Islam è Islam, è la religione. Poi c'è gente come appunto i criminali, i terroristi, i nazisti, che hanno assalito militarmente, decimato militarmente la redazione di Charlie Hebdo, che non hanno niente a che fare con la religione, cioè usano la religione piegandole ai loro scopi, che sono sempre scopi di denaro, di potere, di presa di territori, cioè che non c'entrano veramente nulla con quello appunto che raccontava il profeta. E quindi questa confusione mi ha preoccupato talmente tanto, perché ad ogni attentato veniamo additati come i cattivi della situazione, quando non siamo noi il problema, non è l'islamico o la musulmana che porta i bambini a scuola all'asilo. Il problema è una situazione geopolitica contorta che si sta creando in Medio Oriente e non solo, in Libia. Io vorrei ricordare a tutti che in Libia c'è un gruppo di ISIS, cioè abbiamo qui davanti casa un problema reale, e che non c'entrano con la religione, ma c'entrano con affari geopolitici, con petrolio, con cose veramente molto, molto grandi e complesse. Lei scrive: hanno usato il nome di Dio e del profeta per giustificare l'ingiustificabile. Da afro-europea, da musulmana, sì, non ci sto. No, non ci sto assolutamente, perché io non sono un terrorista, io non sono un criminale, io non uccido la gente. Io quando ho visto le vignette fatte da Charlie Hebdo, ma tantissimi anni fa ormai, ma anche quelle danesi, le ho guardate e ho fatto, vabbè, possono pure urtare la mia sensibilità, ma le guardo e dico, vabbè, mi faccio una risata sopra, per me non è un problema. Uno vuole fare le vignette, è libero di fare le vignette. Uno vuole ridere su una cosa che magari per me è sacra, va benissimo, ne possiamo discutere tranquillamente. Però il diritto e la libertà di espressione è per me, come per tantissimi musulmani, un diritto inalienabile. E quindi quello che è successo a Charlie Hebdo è una dichiarazione di guerra in primis a noi musulmani, perché stanno usando quello che è di più sacro che abbiamo, cioè la nostra religione, per giustificare una mattanza, una macellazione di esseri umani, e questo io non lo tollero, e va detto chiaro, va detto in modo chiaro. E un'altra cosa che va detta in modo chiaro è: non vogliamo gli avvoltoi che usano queste tragedie per andare contro i migranti, contro i figli di migranti, perché ci sono tanti avvoltoi in questi giorni, tante cose che leggo sui social network, tante parole di odio. E quindi io vorrei dire a tutti che i terroristi questo vogliono creare il caos in Europa, vogliono creare la diffidenza, l'odio del vicino contro il suo vicino. Vogliono vederci lottare tra di noi, no? Invece non glielo dobbiamo permettere. Noi siamo europei, io mi sento africana ed europea, e in quanto europea l'Europa è fatta su dei diritti, su dei valori. Quei valori sono i valori di convivenza, come ha detto una mia amica scrittrice Elena Janacek, il motto Liberté, Égalité, Fraternité vale ancora. Cioè è il motto migliore che l'Europa ha prodotto, non a caso l'hanno fatto i francesi con la rivoluzione, e su quello noi ci dobbiamo basare, perché sennò hanno vinto loro, noi la dobbiamo dare vinta assolutamente. Ecco, c'è stata secondo lei una presa di posizione, una presa di distanza forte, abbastanza forte, da parte della comunità islamica in Europa? So che l'imam di Parigi ha detto appunto: questo è un atto terribile, scellerato, e prendiamo le distanze. Ci sono stati delle dichiarazioni in questo senso? Bisognerebbe fare di più o è stato fatto abbastanza? È stato fatto molto, e io ho visto tantissime dichiarazioni, ma anche tantissime foto di tante musulmane e musulmani che sono andate a Place de la République, Je suis Charlie, l'hanno detto in tanti. Ma io penso anche a chi per esempio fa satire e caricature nel mondo islamico contro ISIS in zone di guerra, in Iraq o in Libano, no? E c'è un bellissimo programma, un telefilm comico di un emittente libanese privata che si chiama Khtir Salve Show, che prende appunto in giro al Baghdadi e tutta la combriccola. Insomma, ci sono persone coraggiosissime che fanno un lavoro interno, e secondo me è la cosa che noi dobbiamo fare tutti quanti, che possiamo fare dall'Europa, e conoscere di più quello che si fa in paesi come il Medio Oriente, tutta la bellezza. Cioè esiste una satira araba, islamica, contro gli stessi fondamentalisti islamici? Sì, ce n'è, su Irachia la fanno vedere spesso, ma non soltanto la satira. Io quello che farei veramente capire a tantissimi europei, a tantissimi italiani, di non sentire i vari Mahdi Allam che veramente non fanno capire nulla, ma di provare a conoscere quei mondi, perché c'è tanta musica, c'è tanta danza, c'è tanta letteratura che spiegano la complessità e la bellezza, no, di quello che è il Medio Oriente, che è l'Africa musulmana. C'è anche molta ironia, voi stesse scrittrici, ci sono molte scrittrici, sì, in Italia, no, italiane, che hanno un background, delle radici in territori islamici. Mi viene in mente Randa Gazzi, che ha scritto questo suo libro Oggi forse non ammazzo nessuno, storie minime di una giovane musulmana stranamente non terrorista, qualche anno fa ormai. Sumaya Abdul Qadir, che ha scritto Porto il velo, amo Queen. in senso che siamo, sembra assurdo lei stessa dirlo. Ha scritto Salsicce, no? Questo salsicce. Personaggio molto curioso che compra carne di maiale pur essendo musulmana nel tentativo grottesco di aumentare il proprio coefficiente di italianità, poi, no? Poi non le mangia, no? Fa tutta una sorta di pippone mentale su queste salsicce, poi grazie a Dio insomma non se le mangia perché decide di ha capito che può portarsi tutte e due le culture tra le, sulle spalle. L'ironia anche insomma è un viatico, una strada attraverso la quale far capire insomma che siamo propensi alla risata tutti quanti, attraverso questa risata si può sconfiggere però il fondamentalismo. Assolutamente sì, però una cosa che dobbiamo sconfiggere anche il razzismo, perché quello è l'humus secondo me su cui questi fondamentalisti poi pescano, no? Pescano in un disagio sociale, no? In dei ragazzi sbandati, quindi noi dobbiamo assolutamente riuscire a costruire un'Europa veramente priva di razzismo. Sarà dura, ci vorrà forse una generazione e poi dobbiamo veramente creare nuovi europei, perché non, quando si infiltrano, non so, appunto attentati, situazioni del genere, vuol dire che comunque siamo in un momento di crisi, no? Di identità. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Siamo con Hijaba Shego stasera a parlare con lei di quello che è accaduto in Francia, delle polemiche intorno al libro Sottomissione di Houellebecq e anche di tanti altri temi, anche di musica, no? Ah sì, la musica molto, è una cosa che mi piace molto, io amo molto la musica brasiliana, devo dire la verità, però quando penso appunto a musica araba o appunto di territori, penso a due gruppi, una è libanese, Mashrou Leila. Che abbiamo sentito, che stiamo sentendo. Sì, Mashrou Leila, che insomma sono state una scoperta di quasi 2 anni fa, loro comunque cantano temi anche molto complicati, per esempio parlano di omosessualità, parlano di rapporti fuori dal matrimonio, insomma è molto, sono testi molto interessanti. In e arabo. Poi canto sempre in arabo e stanno conquistando l'Europa, questo è molto bello. Sì, sono una band libanese, per chi non lo conoscesse, simbolo della cosiddetta primavera araba, stanno avendo successo in Europa, sono venuti da poco in Italia, no? Sì, a Napoli, che secondo me è la città più accogliente, una delle città più accoglienti d'Italia, insomma Napoli è Napoli, io le voglio molto bene. E poi pensavo a un altro gruppo, i Waya Usub, che qui non si conoscono, Waya Usub insomma lo significano tempi moderni. Loro sono dei ragazzi che noi abbiamo in Somalia, purtroppo abbiamo il fondamentalismo, quello che ti uccide tutti i giorni. Abbiamo un gruppo fondamentalista che si chiama Al-Shabaab e la Somalia è riuscita in qualche modo a contenerla per tanto tempo, però sono quelli del famoso attentato in Kenya alla Mall, per far capire ai radioascoltatori. Però ecco, questo gruppo musicale ha fatto 2 canzoni contro Al-Shabaab, molto molto forti. Insomma, fare musica e disegnare di questi tempi, insomma, ci vuole molto coraggio. Sì, poi però è un gruppo di ragazzi rifugiati, cioè che non vivono nel loro paese ma vivono in Kenya, hanno vissuto con grandi difficoltà e loro parlano anche di AIDS, di temi semplici, perché la cosa che servirebbe è parlare di cose reali ai giovani. Beh, penso quanto la cultura violenta in cui si cresce ormai in Occidente, in Oriente, insomma, in qualche modo fa parte di questa violenza che poi esplode in questo modo allucinante, no? Poi sono situazioni complicate, cioè il fondamentalismo si sta dividendo in varie frange, non c'è ISIS, c'è Al-Qaeda, cioè, che sono due cose, c'è molto una guerra diverse, civile, no? Tra fondamentalisti, questo non, certo, ce lo dobbiamo dimenticare, cioè chi è più potente di chi, no? Ci sono varie battaglie che si stanno svolgendo. Quello che noi possiamo fare è veramente portare la cultura, perché la cultura al primo posto, perché l'Europa è questo, cioè l'Europa, dopo aver fatto grandi danni al mondo con il colonialismo eccetera, in qualche modo ha riflettuto su se stessa. Allora questo forse ci dobbiamo chiedere, anche che cosa possiamo noi come europei fare per renderci veramente più uniti, perché non lo siamo, cioè oggi l'Europa è solo pareggio di bilancio o appunto debito, no? E non moneta, no? Noi abbiamo la moneta. La discussione su questi temi, sì, più sì, economici, più fiscali. Ma non sappiamo cosa ci unisce a un tedesco, cosa ci unisce a un francese. Noi dobbiamo ritornare sui valori, cosa ci unisce alla Grecia. Non dobbiamo più usare la parola Grecia come sinonimo di, no, di qualcosa di orrendo. No, uno deve dire io sono fratello del greco, perché dalla Grecia è nata comunque questa Europa, no? Non di aver paura di diventare come la Grecia, anzi di abbracciare la Grecia. Quindi ci sono tante cose che questo dibattito discutere. Sull'identità dell'Europa è in realtà quello che è il dibattito attorno al quale si discute anche quando si parla del libro di Houellebecq, Sottomissione, che uscirà fra qualche giorno in Italia, che noi non abbiamo letto e quindi non ne possiamo parlare. Io devo dire la verità che Houellebecq non mi piace come scrittore in generale. Quando penso a uno scrittore invece che ha subito una fatwa molto pesante, penso a Salman Rushdie, che io trovo uno degli scrittori più eccelsi in assoluto, cioè lui ha scritto Le figli della mezzanotte, Versi satanici, ci sono libri, Versi satanici, poi nessuno lo sa, ma è un libro sull'immigrazione, cioè è un libro che a un certo punto c'è questo personaggio che viene descritto, cioè diventa un caprone, e lui vede tutti i personaggi orrendi vicino a lui e gli chiede perché siamo diventati così orrendi, ma come fanno? E la risposta è ci descrivono, e noi soccombiamo alla descrizione che loro fanno di noi. È questo il problema. L'immagine che loro hanno di noi. In questo momento, ma non solo i musulmani, vari gruppi minoritari soccombono all'immagine che viene creata. Ecco, io farei leggere Versi satanici a scuola, perché è un testo fondamentale per capire cosa succede all'immigrato. Io lo faccio sempre leggere, quando insegnavo lo facevo, e non è importante, perché io penso che molta gente parla di razzismo ma non l'abbia mai letto. E quindi invece sarebbe importante leggerlo, perché si capirebbero tante cose sul colonialismo, sul razzismo, sulla diffidenza, su quello che ti fanno i media, no? Se sei una minoranza. È importante. Houellebecq, l'ultimo libro, forse lo leggerò. Io ho letto Particelle elementari e devo dire che, ma a livello proprio stilistico, non mi è piaciuto, non è il mio genere di lettura. Sicuramente, però ha gettato un grosso masso sullo stagno piatto, hanno, no, di discussione sull'identità dell'Europa anche. No, secondo me comunque è una voce comunque interessante. E secondo è me una voce anche furba, perché chiaramente ha stimolato questo dibattito che lui stesso alimenta, diciamo che questo sull'identità dell'Europa, lasciando perdere la parte più così più polemica intorno a questo libro, è una discussione che ci prende tutti quanti inevitabilmente, però bisogna ricordare che appunto, ad esempio in questo caso dell'attacco a Parigi, l'Islam è vittima. Leggevo e mi sembra molto interessante ricordare che non solo è stato urlato dai due terroristi Allah è grande, ma il poliziotto che sì, è Ahmed, a terra, sì, si chiama Ahmed, chiaramente. Sì, Ahmed Aden, e c'è anche il correttore di bozza che si chiama Mustafa. Insomma, in senso, voglio dire, l'Islam sta etnica da una parte e dall'altra, ecco. Sì, perché cioè, in realtà quella scena, no? Il ragazzo musulmano a terra che chiede pietà e viene freddato, e l'altro che è di origine musulmana che lo fredda, in qualche modo ci dice quello che in qualche modo, cioè non c'entra l'Islam, qui c'entra un discorso di una violenza pazzesca, perché erano teoricamente erano due musulmani, no? Doveva risparmiarlo se no credeva, no? Perché probabilmente a terra Ahmed avrà anche detto, guarda, sono musulmano. Magari sì, non lo possiamo qualcosa, sapere. Avrà detto, però questo non gliene frega niente. Cioè, noi dobbiamo partire che se uno è criminale, non gliene frega niente se sei musulmano, cristiano, ebreo, ti fredda comunque. Sembra un attacco molto studiato, mi pare di capire anche dal suo scritto che anche lei pensa che sia un attacco militare. Sì, non c'è dubbio, ma si vede, cioè non è quelle mosse non le fai se sei una testa calda, un lupo solitario. Hai avuto un addestramento. E questa cosa che ci deve preoccupare, a me mi ha preoccupato anche il fatto che in Europa ci sono tante persone che vengono monitorate, però poi sono a piede libero, quindi dobbiamo in qualche modo anche capire che tipo di sicurezza c'è in questo continente. Ecco, è come il Breivik, no? Che ha ammazzato 77 persone, no? In Norvegia. Cioè, queste persone sono monitorate, ma poi sono a piede libero. E quindi io non penso che ci sia una differenza di credo religioso. Cioè, è un problema di violenza, di criminalità. È un po' come è come la mafia in un certo senso, no? Uno non può addossare la colpa della mafia ai siciliani, e come non puoi addossare il fondamentalismo islamico ai musulmani. Semplicemente devi combattere la criminalità dove c'è. Serve legalità, serve cultura, serve anche conoscenza reciproca, perché sennò non ne usciamo. Ecco, un altro scrittore, Umberto Eco, di cui è in uscita tra l'altro casualmente anche un nuovo romanzo, ha parlato di nuovo nazismo con l'ISIS. Lei è d'accordo? Sì, io penso sì, che le modalità si può parlare di, chiaro, il nazismo storico e il fascismo storico sono diversi. Però ci sono degli elementi che lo ricordano, no? Lo squadrismo, ma anche l'uso della propaganda. A me ha colpito molto anche questo modo che questi gruppi hanno di usare i cosiddetti topics occidentali, dai talent, quando decapitano una persona sembra quasi la nomination del Grande Fratello, quando appunto usano benissimo, sono dei filmmaker. Cioè, a me preoccupa questo aspetto, no? Che comunque c'è un'attenzione alla propaganda, ai mezzi di comunicazione, come lo aveva il nazifascismo. Cioè, Mussolini e Hitler sapevano quanto la TV e la radio all'epoca erano potentissime per fare arrivare dei messaggi, e questi sono uguali, cioè alla fine, no, usano la propaganda in maniera proprio certosina, e quindi questo ci deve assolutamente preoccupare. Per combattere questo però non dobbiamo cedere al loro ricatto. Hijaba, ha paura che dopo questo attentato, dopo questo libro anche di Ulbeck, intendo, ci possa essere più razzismo in Europa? Allora, il libro non mi preoccupa assolutamente, perché ogni scrittore deve essere libero di dire quello che vuole, anzi i libri possono anche accendere dei dibattiti interessanti, quindi io sono sempre per i libri, in senso un libro mai deve essere bruciato. Io leggerei anche il Mein Kampf se in un qualche modo lo spieghiamo. Per esempio, io faccio sempre delle cose con dei laboratori scolastici dove faccio sentire Faccetta Nera o altre canzoni fasciste di cui sono assolutamente esperta, tipo Topolino va in Abissinia, che è una delle canzoni più tremende del ventennio. Le spiego ai ragazzi, perché molto spesso, no, non dobbiamo avere paura delle cose, le dobbiamo spiegare. Quello che mi preoccupa sono i vari non esperti che vengono chiamati dai media, no, a parlare di cose che non sanno. Mi preoccupa più Magdi Allam, cioè Ulbeck lo farei leggere, faremmo un grande dibattito, ma Magdi Allam che spara a zero sul niente mi preoccupa molto di più. Ecco, soprattutto in Italia abbiamo questi media che creano dei personaggi così, che non hanno dei riferimenti storici, non hanno una base culturale. Questo mi preoccupa, quando non c'è una base culturale. Ecco. Grazie per essere stata con noi, Hijaba Shego, scrittrice italiana di origine africana e di religione islamica, che abbiamo avuto il piacere di avere stasera. Buona serata. Buona serata a voi. Grazie Valeria Bernardi in regia, a tutti voi per l'ascolto, ci risentiamo sabato prossimo. You've got to give a little. That's the glory of love.